Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. Lucy e il vetturino si inoltrarono a passo svelto nel sottobosco che si infittiva sempre più. Stavano avvicinandosi all'orlo della balsa e la veduta spuntava a tratti intorno a loro, ma la rete bruna dei cespugli la spezzava in innumerevoli frammenti. Lui badava al suo sigaro e a bloccare i ramoscelli flessibili perché non le intralciassero il cammino. Lucy si rallegrava di essere scampata alla monotonia. Non un passo, non un virgulto erano insignificanti per lei. «Eccolo!» esclamò lui. In quell'attimo stesso il terreno cedette e Lucy ruzzolò fuori dal bosco con un grido. Luce e bellezza la avvilupparono. Era caduta sopra un piccolo scaglione cosparso da cima a fondo di violette. «Coraggio!» urlò il suo compagno, che era rimasto fermo un paio di metri più su. «Coraggio! E amore!» Lucy non rispose. Dal punto in cui era andata a finire, il suolo calava scosceso nel paesaggio e le violette fluivano a valle in ruscelli e torrenti e cateratte, irrigando d'azzurro il fianco della collina, mulinando intorno ai tronchi degli alberi, raccogliendosi in pozze entro le buche, spargendo sull'erba macchie di spuma turchina. Mai però in tanta sovrabbondanza come lì. Quello scaglione era la polla sorgiva, la fonte primeva da cui la bellezza sgorgava per annaffiare la terra. Ritto sull'orlo, simile a un nuotatore che si prepari al tuffo, stava il buon uomo. Ma non era il buon uomo che Lucy si aspettava di incontrare, ed era solo. Al rumore della sua venuta, George si era girato. Per un momento la contemplò, come un essere caduto dal cielo. Le vide in volto una gioia radiosa. Vide i fiori che le sbattevano contro il vestito in onde azzurre. Gli arbusti soprastanti si richiusero. George si fece rapidamente avanti e la baciò. Prima che le riuscisse di parlare, quasi prima che le riuscisse di sentire, una voce chiamò «Lucy! Lucy! Lucy!» Il silenzio della vita era stato rotto dalla signorina Bartlett, che spiccava marrone sullo sfondo della veduta. Una complessa partita era andata svolgendosi su e giù per la collina durante l'intero pomeriggio. In che consistesse e come esattamente si fossero piazzati i giocatori, Lucy fu lenta a scoprirlo. Il signor Eager aveva affrontato lei e la cugina con occhio indagatore e Charlotte lo aveva respinto con un fiume di futili discorsi. Al signor Emerson, che cercava suo figlio, era stato detto dove lo avrebbe probabilmente rintracciato. Al signor Beebe, spettatore neutrale acceso in volto, fu imposto di radunare le fazioni per mettersi sulla via del ritorno. Si era diffuso un senso generale di smarrimento e di perplessità. In mezzo a loro c'era stato Pan. Non il grande dio Pan, ormai sepolto da 2000 anni, ma il piccolo dio Pan che presiede i contrattempi mondani e i picnic mal riusciti. Il signor Beebe aveva perso tutti di vista e consumato in solitudine il cestino del tè che si era portato dietro in funzione di sorpresa piacevole. La signorina Levish aveva perso di vista la signorina Bartlett. Lucy aveva perso di vista il signor Eager. Il signor Emerson aveva perso di vista George, la signorina Bartlett aveva perso un quadrato impermeabile, fetonte, aveva perso la partita. Quest'ultimo fatto era innegabile. Il fiaccheraio salì in serpa rabbrividendo, tirandosi su il colletto e profetando un rapido peggioramento del tempo. «Andiamocene subito», disse la comitiva. «Il signorino vuol tornare a piedi». «Farsi a piedi tutta la strada?» «Ma ci metterà delle ore», osservò il signor Beebe. Pioggia e oscurità giunsero insieme. Le due signore si rincantucciarono l'una addosso all'altra sotto l'insufficiente ombrellino. Un lampo squarciò il cielo e la signorina Levish, che era una donna nervosa, cacciò uno strillo dalla prima carrozza. Al lampo successivo strillò anche Lucy e il signor Eager le si rivolse professionalmente. «Coraggio, signorina Honeychurch, coraggio e fede. Se mi è lecito dirlo, in un simile terrore degli elementi c'è un che di quasi blasfemo. Dovremmo credere sul serio che tutte queste nuvole, tutto questo gigantesco scialo di elettricità siano suscitati semplicemente per annientare lei o me? No, naturalmente. Anche dal punto di vista scientifico, le nostre possibilità di salvezza sono enormi. I coltelli di acciaio, ossia gli unici oggetti che potrebbero attirare la scarica elettrica, stanno nell'altra carrozza. E in ogni caso siamo mille volte più al sicuro qui dentro che se fossimo a piedi. Coraggio, coraggio e fede. Signor Iger, chiamò il signor Bibb, ci occorre il suo aiuto. Vuole farci da interprete? George, gridò il signor Emerson. Domandi al suo vetturino da che parte è andato George. Il ragazzo può smarrire la strada, rischia di essere ucciso. Tipico modo di comportarsi, fu il commento del cappellano mentre scendeva dalla carrozza. In presenza della realtà, gli individui di quello stampo crollano invariabilmente. Che cosa sa? Bisbigliò Lucy appena furono sole. Charlotte, quanto ne sa il signor Iger? Nulla, carissima, non sa nulla. Però... E la signorina Bartlett indicò il fiaccheraio. Quello sì che sa tutto. Carissima, non sarebbe opportuno che noi... Non credi che io debba... Tira fuori il borsellino. È spaventoso trovarsi mischiati tra gente delle classi inferiori. Lui ha visto ogni cosa. Diede a Fetonte un colpetto sulla schiena con la guida di Firenze dicendo «Silenzio!» E gli porse una lira. «Charlotte», disse Lucy, «cara Charlotte, baciami, baciami ancora. Tu sola puoi capirmi, mi avevi avvertita di essere prudente. Io invece...» «Non piangere, carissima. Ti sfogherai a tuo comodo. Sono stata sciocca e testarda. Peggio di quanto tu non sappia, molto peggio. Una volta davanti al fiume... Ma lui non sarà mica rimasto ucciso, è impossibile, vero? Questa eventualità disturbava il suo pentimento. Effettivamente il temporale era più impetuoso lungo la strada maestra, ma Lucy si era trovata vicina al pericolo e quindi riteneva che il pericolo incombesse su tutti, senza distinzione. Confido di no, possiamo sempre pregare che ciò non avvenga. Veramente, credo che sia stato colto di sorpresa, proprio come era già successo a me. Ma questa volta non merito rimproveri. Vorrei che tu ne fossi convinta. Sono scivolata giù tra le violette, ecco tutto. Non... Voglio essere sincera fino in fondo. Qualche rimprovero me lo merito, sai. Mi sono venuti dei pensieri sciocchi. Il cielo era d'oro, capisci? E tutta la terra turchina, e per un momento lui è sembrato qualcuno uscito da un libro. Da un libro? Gli eroi, gli dèi, stupidaggini da scolarette. E dopo? Ma Charlotte... Tu sai cos'è accaduto dopo? La signorina Bartlett tacque. In verità le restava ben poco da apprendere. Con una modica dose di penetrazione attrasse amorevolmente a sé la giovane cugina. Sulla via del ritorno il corpo di Lucy fu scosso di continuo da profondi sospiri che niente poté reprimere. «Voglio essere sincera», sussurrò la ragazza. «È tanto difficile essere del tutto sinceri». Non crociarti, carissima. Aspetta finché sarai più calma. Riparleremo di questa storia in camera mia prima di coricarci. E così rientrarono in città, senza allentare la stretta delle loro mani. Per Lucy fu uno shock scoprire fino a che punto l'emozione si fosse attutita nei compagni. Il temporale era cessato e il signor Emerson era più tranquillo sul conto del figlio. Il signor Bibb aveva ritrovato il buon umore e il signor Iger stava già trattando dall'alto in basso la signorina Levish. Della sola Charlotte poteva essere sicura. Lei, di Charlotte, il cui sembiante celava tesori di intuito e di affetto. Il piacere squisito della prossima confessione mantenne Lucy quasi felice durante la lunga serata. Non rifletteva tanto sull'accaduto, quanto sul modo in cui lo avrebbe descritto. Tutte le sue sensazioni, gli spasimi di coraggio, i momenti di gioia irragionevole e il misterioso scontento, dovevano venire scrupolosamente esposti davanti alla cugina. E insieme, in sublime confidenza, li avrebbero sbrogliati e interpretati dal primo all'ultimo. «Alla fine comprenderò me stessa», si disse. Non sarò più turbata da cose che sbucano fuori dal nulla e il cui significato mi sfugge. Fu solo in ora assai tarda che la signorina Bartlett recuperò il proprio bagaglio e poté dire nel solito tono di blanda riprovazione: «Bene, carina, io dal canto mio sono pronta per andare a nanna. Accompagnami in camera, ti darò una bella spazzolata ai capelli». Con una certa solennità la porta fu chiusa e una sedia di vimini messa a disposizione di Lucy. Poi la signorina Bartlett disse: «Dunque, cosa bisogna fare?» La domanda colse Lucy alla sprovvista. Non le era neppure passato per la testa che avrebbe dovuto fare qualcosa. Aveva contato unicamente su un'esposizione particolareggiata delle proprie emozioni. Cosa bisogna fare? È un problema, carissima, che tu sola sei in grado di risolvere. Fuori la pioggia scrosciava sulle finestre nere e la grande camera sapeva di umido e metteva il gelo nelle ossa. Una candela accesa tremolava sul cassettone vicino alla toque della signorina Bartlett, che proiettava ombre mostruose e fantastiche sopra la porta chiusa a chiave. Un tram passò ruggendo nel buio e Lucy avvertì una tristezza inesplicabile, malgrado si fosse asciugata gli occhi da un pezzo. Li alzò verso il soffitto, dove grifoni e fagotti erano vaghi e incolori, addirittura spettri di letizia. «Sono quasi 4 ore che piove», disse finalmente. La signorina Bartlett ignorò l'osservazione. «Come ti proponi di farlo tacere?» «Il vetturino?» «Eh no, figliola mia, il signor George Emerson». Lucy si mise a camminare su e giù per la stanza. «Non capisco», disse dopo una lunga pausa. Capiva benissimo, ma non desiderava più essere sincera fino in fondo. «Come conti impedirgli di parlare?» «Ho l'impressione che non farebbe mai una cosa simile». «Anch'io, da parte mia, intendo giudicarlo caritatevolmente, ma per sfortuna conosco già il suo tipo. Succede di rado che quella gente si tenga le sue prodezze per sé». «Prodezze!» gridò Lucy, trasalendo nell'udire l'orribile plurale. «Ecco, io non sono una puritana, né trovo necessario definirlo un giovane corrotto, ma salta agli occhi che è di una grossolanità inaudita. Diamone pure la colpa ai suoi deplorevoli precedenti e all'istruzione che ha ricevuto, se preferisci. Ma non abbiamo fatto un passo avanti col nostro problema». Nel cervello di Lucy balenò un'idea che, se ci avesse pensato prima e se ne fosse appropriata, avrebbe potuto segnare una vittoria. «Mi propongo di parlargli», disse. La signorina Bartlett cacciò un grido di allarme genuino. «Capisci, Charlotte, la tua premura non la dimenticherò mai, ma, come hai detto tu stessa, è affare mio, mio e suo. E ti prepari a implorarlo, a supplicarlo di tacere?» «Nemmeno per sogno. Non dovrebbero esserci difficoltà. Qualunque cosa gli si chieda, quello risponde sì o no e tutto finisce lì. Ho avuto una gran paura di lui. Ora invece non ne ho più neanche l'ombra». «Ma siamo noi, cara, che lo temiamo per te. Sei così giovane e inesperta. Hai sempre vissuto in mezzo a gente così per bene che non puoi immaginarti di cosa siano capaci gli uomini, come sappiano ricavare un piacere brutale dall'insulto arrecato a una donna che non è protetta né spalleggiata dal suo sesso. Quest'oggi, per esempio, se non fossi arrivata io, che cosa sarebbe successo?» «Non saprei», disse Lucy gravemente. Un'inflessione della sua voce indusse la signorina Bartlett a rinnovare la domanda, intonandola con maggior vigore. «Che cosa sarebbe successo se non fosse arrivata io?» «Non saprei», ripeté Lucy. «Quando lui ti ha insultata, come avresti reagito?» «Non ho avuto il tempo di pensarci, se è arrivata tu». «Sì, ma non vuoi dirmi adesso che cosa avresti fatto?» «Avrei...» Lucy si trattenne e lasciò a mezzo la frase. Si avvicinò alla finestra grondante e appuntò gli occhi nel buio. Non riusciva a concepire che cosa avrebbe fatto. «Allontanati dalla finestra, cara», disse la signorina Bartlett. «Ti vedranno dalla strada». Lucy ubbidì. Era in balia della cugina. Non poteva modulare altrimenti che in chiave di mortificazione quella che aveva adottato fin dal principio. Nessuna delle due alluse più alla sua proposta di parlare a George Emerson e di risolvere la situazione, comunque si volesse interpretarla, insieme a lui. Mentre parlava, la signorina Bartlett si era sfilata gli anelli, ne portava parecchi, e li aveva disposti sul cuscinetto degli spilli. Finita l'operazione, soffiò nell'interno dei guanti e disse: «Ci aspetta una sfacchinata se vogliamo prendere il treno del mattino, ma dobbiamo tentare ugualmente». «Quale treno?» «Il treno per Roma». E la signorina Bartlett esaminò i guanti con aria critica. La ragazza accolse l'annuncio con la stessa disinvoltura con cui era stato comunicato. «A che ora parte il treno per Roma?» «Alle 8.» Cominciarono a scegliere gli indumenti da riporre, giacché non c'era tempo da perdere se dovevano prendere il primo treno per Roma. Lucy, ammonita in tal senso, si mise a fare la spola fra le due camere e il disagio di lavorare a lume di candela ebbe la meglio in lei su un più sottile malessere. Ebbe solamente la sensazione che la candela avrebbe bruciato meglio, che l'operazione bagaglio sarebbe riuscita più agevole, che il mondo sarebbe parso più felice se lei fosse stata capace di dare e ricevere un po' di affetto umano. L'impulso le era venuto anche in passato, mai però con tanta irruenza. Si inginocchiò al fianco della cugina e la strinse tra le braccia. «Carissima Lucy, potrai mai perdonarmi?» disse la signorina Bartlett. Lucy si mise immediatamente in guardia, sapendo per amara esperienza quale perdono alludesse la signorina Bartlett. Sentì rifluire l'emozione e modificò leggermente l'abbraccio, protestando: «Che vuoi dire, cara Charlotte? Come se avessi qualcosa da perdonarti?» «Tu hai parecchio da perdonarmi, e anch'io ho parecchio da perdonare a me stessa. Mi rendo perfettamente conto che non passa un minuto senza che ti urti i nervi.» «Ma no!» La signorina Bartlett adottò la sua parte preferita, quella della martire prematuramente invecchiata. «Ho mancato in tutto e per tutto. Ho mancato al mio compito di renderti contenta, ho mancato al mio dovere verso tua madre. Lei è stata così generosa con me, non avrò mai più il coraggio di guardarla in faccia dopo un simile disastro. Ma la mamma capirà di sicuro. Non è successo per colpa tua, questo guaio. E poi non è affatto un disastro.» «È successo per colpa mia ed è proprio un disastro. Quando glielo racconterai, tua madre lo vedrà con la stessa chiarezza con cui lo vedo io.» Lucy, istigata dal vile desiderio di migliorare la situazione, osservò: «Che bisogno ha la mamma di venirlo a sapere? Ma tu non le racconti sempre tutto?» «Beh, di solito sì. Non ho il coraggio di infrangere la confidenza che ti unisce a tua madre. Ci trovo qualcosa di sacro. A meno che tu non te la senta di raccontarglielo.» Lucy non volle degradarsi fino a questo punto. «Naturale che glielo avrei raccontato. Ma nel caso che la mamma avesse qualche motivo per rimproverarti, prometto che non glielo racconterò. Tanto più che sono dispostissima a non parlarne affatto, né a lei né a nessun altro.» La promessa di Lucy pose fine di colpo a quel colloquio tirato così in lungo. La signorina Bartlett la sbaciucchiò in fretta sulle due guance, le diede la buonanotte e la spedì in camera sua. Per un momento l'origine del guaio passò in secondo piano. George, a quanto pareva, si era comportato davvero mascalzone, e forse questo era il punto di vista che si sarebbe finito con l'adottare. Lì per lì Lucy non lo assolse né lo condannò. Mantenne in sospeso il giudizio. Nell'istante in cui stava per giudicarlo, era intervenuta la voce della cugina, e da allora in poi era sempre stata la signorina Bartlett a dominare la situazione. La signorina Bartlett, di cui anche adesso si udivano i sospiri da una fessura nella parete divisoria. La signorina Bartlett, che in sostanza non era stata né malleabile, né umile, né illogica. Aveva agito da grande artista. Per un certo tempo, anzi per anni, era parsa una creatura insignificante. Ma alla fine del suo operato si presentava alla ragazza il quadro completo di un mondo senza gioia, senza amore, nel quale i giovani precipitano verso la distruzione finché non si sono fatti le ossa. Un mondo pudico, di precauzioni e barriere che potranno forse stornare il male, ma che non sembra arrechino il bene, se ci è dato giudicare da coloro che le hanno adoperate in prevalenza. Suonò il campanello di strada e Lucy andò alla finestra. Prima di guardare fuori dalle persiane, titubò. Si volse e spense la candela. Così fu che quantunque vedesse sotto di sé qualcuno che sostava nella pioggia, lui, pur alzando gli occhi, non la vide. Per recarsi in camera sua, George Emerson doveva passare davanti a quella di Lucy. Lucy era ancora vestita. Le si affacciò l'idea di sgusciare nel corridoio e dire semplicemente che sarebbe partita prima che lui fosse alzato e che i loro stranissimi rapporti erano finiti. Se avrebbe avuto il coraggio di farlo, non fu mai appurato. Nel momento critico la signorina Bartlett aprì la porta della propria stanza e la sua voce disse: Per favore, signor Emerson, venga un momento in salotto. Desidero scambiare due parole con lei. Di lì a poco si udirono nuovamente i loro passi e la signorina Bartlett disse: «Buonanotte, signor Emerson». Si ebbe per tutta risposta il respiro stanco, pesante del giovane. Lo chaperon aveva svolto il suo compito. Lucy gridò a voce alta: «Non è vero, non può essere tutto vero, non voglio che mi si confondano le idee. Voglio fare presto a invecchiare». La signorina Bartlett bussò alla parete. «Va a letto immediatamente, cara. Hai bisogno di riposare il più possibile». Al mattino partirono per Roma. Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.